ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala. Buon pomeriggio, buona domenica ed è sempre corsa all'acquisto di bici, boom di vendite, più 60% a maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dati di cui abbiamo già parlato in questa trasmissione con il bonus bici governativo che sta trainando il mercato. Ora che abbiamo comprato la nostra bicicletta, cominciamo anche a pedalare, magari a farlo in modo intelligente. Oggi vogliamo parlare di bike to work, spostamenti casa-lavoro sulle due ruote, in un periodo in cui alcune aziende hanno ripreso a lavorare in presenza, molte forse lo cominceranno a fare nei prossimi mesi, e ne parliamo proprio dal punto di vista loro, delle aziende. Un esempio virtuoso è quello della Fantic Motor, storico marchio italiano che produce motociclette ma anche bici elettriche di alta gamma. 100 dipendenti tornati a lavorare nelle due sedi, una a Quinto di Treviso e l'altra a Santa Maria di Sala vicino Padova, con due iniziative che ci racconta Mariano Roman, amministratore delegato. La prima iniziativa che abbiamo messo sul campo, in campo, è quella di essere da esempio con i nostri collaboratori e fare un prezzo specialissimo ai nostri collaboratori con un pagamento in busta paga in 12 mesi, e a ogni collaboratore che viene a lavorare in bicicletta gli diamo 0,25 euro al chilometro. Questo per stimolarli in maniera positiva a questo modo di vivere che riteniamo essere il futuro. Ecco, oggi dobbiamo tutti quanti fare un esame di coscienza e entrare in un mondo più sostenibile. È uno dei motivi per cui, quando abbiamo acquistato la Fantic 5 anni fa, abbiamo deciso di andare verso questa direzione, di fare prodotti, oltre ai prodotti diciamo tradizionali a combustione interna, anche lanciare tutta una gamma di prodotti diciamo elettrici per la mobilità urbana e non solo urbana. La Fantic produce anche bici elettriche. Sì, abbiamo sviluppato una gamma completa di bici a pedalata assistita che va dal mountain bike di altissimo livello, prodotti che vanno dai 4 a 9 mila euro, molto molto specialistici, nei quali abbiamo introdotto anche molta della tecnologia del settore motociclistico. Abbiamo sostanzialmente abbinato le competenze del mondo delle moto a quelle della bici. E come sta andando la vendita di bici elettriche? Esageratamente bene, abbiamo grossissime difficoltà a seguire le richiesta del mercato. Abbiamo veramente una situazione estremamente positiva in questo momento, che ci dovrebbe far recuperare, per quanto riguarda il mondo bici, le perdite dei due mesi di blocco assoluto che abbiamo avuto durante il lockdown. Prodotti di alta gamma che però forse è difficile usare per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro. Sembrano un po' sprecati. Beh, allora, per l'uso quotidiano, sempre partendo da queste tecnologie, abbiamo sviluppato anche, ad esempio, la Living, che mantiene molto di queste tecnologie, ma che è soprattutto diciamo una bici da città e da turismo. È la bici che abbiamo anche, che ha acquistato anche il ministro Costa, no? E che io uso quotidianamente per venire al lavoro. Lavoratori dipendenti come hanno accolto questa vostra iniziativa, sia per quanto riguarda l'acquisto delle bike sia per quanto riguarda il bike to work? Allora, l'hanno accolto con un certo entusiasmo e sono lì che stanno scegliendo la bici giusta, eccetera. Penso che questa cosa qui, anche se siamo in una località dove diciamo le piste ciclabili eccetera non sono il massimo, francamente, però nonostante questo una certa risposta positiva c'è stata. E questo bonus come verrà calcolato? Un po' sulla fiducia? No, ma ogni dipendente sappiamo quanto spazio ha, quanto percorrenza ha per venire al lavoro. Ha un registro che si registra ogni volta che viene a lavorare in bicicletta, poi in busta paga gli viene riconosciuto il tot. E comunque c'è un parcheggio anche dove interno all'azienda? Sì, abbiamo un parcheggio interno dove ci sono anche le colonnine di ricarica, che se uno si dimentica eccetera può comunque ricaricarsela durante l'orario del lavoro. Invece gli spogliatoi sul modello danese non ce l'avete, forse anche perché sono bici elettriche, quindi non si suda, non si fa fatica. No, beh, quello è il vantaggio della bici elettrica è appunto, io abito a 15 km di distanza e francamente vengo in giacca e cravatta. Qual è la sua opinione sul bonus bici? Qualcuno ha detto, beh, forse era meglio introdurlo in un periodo diverso, adesso dopo il lockdown addirittura non riusciamo a stare appunto al passo della domanda. Ma che il meglio è nemico del bene, no? Io penso che questa cosa qui, anche se poteva essere fatta in maniera diversa, magari in percentuale al valore della bici ad esempio e non una tariffa così, comunque lo vedo estremamente positivo, perché comunque ha dato uno stimolo a pensare alla cosa, no? Tante volte noi abbiamo bisogno di avere qualche stimolo e questo è stato uno stimolo estremamente positivo, perché comunque questo fa bene alla società, ecco, questo è il concetto di base, no? Al di là del business, al di là di tutto, dobbiamo pensare anche a proporre delle cose che cambino la nostra cultura rispetto al nostro ambiente. Secondo lei il lockdown e poi la ripresa, la fase 2, hanno impresso una svolta alla mobilità, oppure si è trattato di un entusiasmo collettivo, di un'euforia che poi mano a mano si affievolirà? Allora, il mio pensiero è che questo qui cambierà in maniera sensibile il nostro comportamento. Naturalmente sarà molto condizionato questo dalla qualità dei prodotti che la gente andrà ad acquistare. Spiego, in Germania questo cambiamento in cultura c'è già da 4-5 anni, no? L'anno scorso la Germania ha chiuso con 1.360.000 bici elettriche, noi siamo a 190. Il prezzo medio in Germania supera i 3.500 euro, in Italia siamo a 1.600. È chiaro che quando la bicicletta è a certa performance, una certa qualità, diventa un sostitutivo dei mezzi di trasporto. Quando invece è il prodotto di bassa qualità, ecco che quello non sarà mai un sostitutivo del mezzo di trasporto, non sarà mai un mezzo di trasporto serio. E secondo me è quello che dovrà cadere, spero che accada in Italia, che la gente, avendo provato queste biciclette elettriche, cominci a capire la qualità e cominci a capire che se è un prodotto di qualità, di performance, diventa veramente un mezzo di trasporto anche per andare a lavorare, insomma. Le do questi dati: in Francia 5 anni fa, quando siamo partiti col progetto, il mercato delle bici elettriche era 38.000 pezzi, no? E adesso siamo attorno ai 400.000. Ormai il cambiamento di cultura sta avvenendo un po' in tutta Europa e ci sarà sicuramente anche in Italia, per cui sono molto fiducioso che stiamo assistendo a un cambiamento culturale importante. Bene, grazie mille allora, grazie a Mariano Romano, amministratore delegato di Fantic. Grazie a lei e buona giornata. E allora torniamo ancora a parlare degli spostamenti casa lavoro, degli incentivi, di come un'azienda può diventare più bike friendly. Quindi sempre dal punto di vista delle aziende cerchiamo di capire come si può organizzare meglio un luogo di lavoro. Paolo Pinzuti, CEO di Bikeonomist, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno. Ciao Paolo, allora voi avete realizzato un servizio per le aziende che vogliono usufruire del bike to work, con una serie, immagino, di consigli per poter organizzare, no, questo servizio. Sì, noi abbiamo pensato appunto che in questa fase le aziende devono in qualche modo adattarsi a quello che è il cambiamento della società, e chiaramente uno dei cambiamenti è quello della mobilità. Sempre più persone scelgono di utilizzare la bici ed è giusto che anche le aziende in qualche modo si rendano più bike friendly possibili, per dare la possibilità ai propri dipendenti di muoversi in bicicletta per andare a venire al lavoro. La nostra idea quindi nasce un po' per rispondere a questa esigenza, ma anche per dimostrare alle aziende che un lavoratore che si reca al lavoro appunto in bicicletta è una persona più produttiva, perché arriva già sveglia al lavoro, più in salute, quindi meno predisposta ai malanni di stagione, dicendo, quindi con riduzione dell'assenteismo, è probabilmente anche più puntuale, perché chiaramente non rimane bloccata nel traffico. Quindi da questo assunto noi abbiamo deciso di mettere appunto un servizio che consiste nell'efficientamento della mobilità, come l'abbiamo chiamato, ovvero che è quello di adattare gli spazi esistenti per creare degli spazi dedicati al parcheggio delle biciclette, ma anche poi quello che è tutto l'aspetto che riguarda gli aspetti igienici, quindi docce, spogliatoi, armadietti e quant'altro, affiancandolo anche con un percorso di comunicazione interna, quindi di coinvolgimento del lavoratore per stimolarlo ad avere maggiore attenzione o comunque un maggiore utilizzo della bicicletta, e anche comunicazione esterna, perché è giusto anche che le aziende che in qualche modo decidono di abbracciare queste pratiche di sostenibilità ne abbiano un beneficio in termini di comunicazione esterna e di conseguenza di immagine nei confronti del pubblico. Poi potrebbero anche funzionare, ma vengono utilizzati davvero poco in Italia dalle aziende, e degli incentivi che magari vadano direttamente nella busta paga del lavoratore che va al luogo del lavoro in bicicletta. Esattamente, questo chiaramente è un altro programma che si può implementare. Diciamo, essere bike friendly non significa solamente essere disposti ad accettare che ci siano delle biciclette all'interno del proprio stabile, ma anche poi essere promotori attivi di questa cosa. E sulla base di questo si può per esempio decidere di dare un premio in busta paga in termini economici, o magari un giorno di ferie ogni X chilometri percorsi in bicicletta per recarsi al lavoro. Una bella cesta di Natale, insomma, un po' rinforzata, non so, qualche premio, insomma, si può sempre inventare, no? Assolutamente. Però, insomma, l'aspetto mi sembra imprescindibile affinché un'azienda possa essere definita bike friendly è innanzitutto il parcheggio, perché sembra banale, ma molte persone non portano la bici in giro per la città e la lasciano così parcheggiata a un palo, perché insomma ci sono anche bici che costano, ci sono anche città dove le biciclette vengono rubate. È chiaro, allora il primo tema per chi decide di usare la bicicletta è quella della sicurezza, cioè la certezza di poter andare in giro in bicicletta senza problemi di incolumità. Il secondo tema è sempre quello della sicurezza, ma da un altro aspetto, cioè il fatto di essere sicuri di ritrovare la propria bicicletta al termine della giornata lavorativa. Alla fine veramente sono piccoli accorgimenti, infatti abbiamo anche realizzato una mini guida per aiutare chiunque volesse rendersi bike friendly in autonomia per fare le giuste scelte in questa direzione. Quindi ecco, efficientare la propria mobilità da questo punto di vista è un win-win, che quindi offre anche l'occasione per ottenere benefici per le aziende, come per esempio il fatto di avere dei lavoratori sempre in orario, in salute e che arrivano già svegli al lavoro. Perché una cosa è certa, in bicicletta si sa quando uno parte, si sa quando uno arriva, a meno di non bucare, no? Però insomma i tempi sono certi. Esatto. La certezza c'è. Esatto, la storia del scusate sono arrivato tardi perché ho trovato traffico, in bicicletta non regge. No? Purtroppo non regge, ecco. Va bene Paolo, grazie mille. E poi insomma ci terrai aggiornati. Va bene, molto volentieri, un caro saluto a tutti. E allora raccontateci se volete le vostre esperienze di Bike to Work, i riferimenti li trovate tutti sul nostro sito. Grazie a Alessandro Chiappini per la parte tecnica, un saluto anche al nostro ciclopoeta Alessandro Ricci che ci accompagna con le sue quartine. Ciao. Nuovi chilometri di ciclabili in città per muoversi più agili. Meno droni, più pedoni in strada. Che sia certezza, non una sciarada.